Ciao a tutti, io sono Carlotta e oggi abbiamo ospite ai microfoni di Radio Città Fujiko un artista modenese che si chiama Enzo Cappucci, in arte Carati. È un cantautore emiliano assolutamente esordiente, ma non nuovo al mondo della musica. Infatti canta nella band pop punk Why Everyone Left, con cui dal 2014 gira l'Europa, firma con un'etichetta australiana e viene menzionato da Alternative Press come una delle 10 band pop punk europee che devi conoscere. Durante la quarantena trova il tempo di riordinare le idee per un progetto indie pop, realtà musicale, che segue da vicino da quasi 10 anni, ma sempre e solo come spettatore. Le influenze sono le più svariate, dal cantautorato odierno definito hit pop al post hardcore di artisti come Fine Before You Came, fino al rap poetico di Mekna, fino alla trap nostrana. Tutte influenze che lasciano anche la porta aperta a contaminazioni più evidenti nel futuro. L'uso di figure concrete in chiave nostalgica caratterizzano il mood emo di 3 maggio, il singolo d'esordio autoprodotto. E infatti è il singolo di cui ci parlerà oggi Carati, a cui diamo il benvenuto a Radio Città Fujiko. Benvenuto Enzo! Ciao, ciao a tutti, bella per Radio Città Fujiko e ciao Carlotta! Allora, abbiamo ascoltato Dead Inside, una delle canzoni più ascoltate della tua band Why Everyone Left, di cui appunto tu sei il frontman. È una band pop punk che ha girato, dicevamo, l'Italia e l'Europa, ha calcato vari palchi e sembra proprio un altro genere, invece quello del tuo singolo d'esordio di cui parleremo oggi. Il singolo in questione si chiama 3 maggio. C'è da dire innanzitutto che è scritto in italiano e già questa è una novità, e poi verte sul filone più hip hop, quindi una scuola che si rifà più al genere cosiddetto indie, diciamo così, anche se genere non è. Il 3 maggio lo sappiamo tutti, eravamo ancora in quarantena, ma era la vigilia della famosa fase 2, infatti dal 4 maggio poi si sarebbe potuti finalmente uscire di casa e quindi ti chiedo inevitabilmente come hai vissuto questa cosa, c'entra questa data con il fatto di essere rinchiusi in quarantena, di voler evadere, e ti chiedo appunto se c'entra con la canzone, perché voglio capire come è nato questo singolo, cioè se è nato in un momento appunto di pensieri, noia, disperazione dato da questo periodo, insomma raccontaci un po'. In realtà non c'è una vera correlazione tra il titolo del pezzo e il lockdown, anche se sapevo che si sarebbe pensato. Semplicemente in genere a inizio maggio comincio a rendermi conto che sta arrivando l'estate, perché magari comincia a fare un po' più caldo. Quest'anno penso di essermene accorto proprio il 3 maggio, perché era domenica, allora ho voluto dargli il titolo, perché comunque alla fine il pezzo parla dell'estate. La quarantena in un certo senso per me è stata positiva, perché forse senza tutto quel tempo libero non avrei mai veramente riordinato tutte le idee per fare questo progetto, che comunque è una cosa che mi dico di fare da anni, ma poi per impegni vari, col lavoro, la band, non ho mai veramente approfondito, e quindi in realtà con la quarantena sono riuscito a mettermi CD e cominciarlo per davvero. C'è differenza tra scrivere e cantare in italiano e scrivere e cantare invece in inglese? Sì, per me c'è tanta differenza. Io ormai sono diversi anni che scrivo quasi solo in inglese, e pur avendo comunque una buona conoscenza della lingua ed essendo stato molte volte all'estero a suonare, mi sono comunque reso conto che la libertà di espressione che ho in italiano è decisamente maggiore rispetto all'inglese. Il 3 maggio in realtà non è neanche il primo singolo che pubblico in italiano, ma il secondo, perché il primo l'avevo pubblicato con la band un paio d'anni fa, e in entrambe le situazioni mi sono reso conto che per me è molto più facile chiudere un testo in italiano, riuscire a esprimermi riuscire a dire esattamente quello che voglio, soprattutto lo faccio molto più velocemente. Tu segui il filone indie, come ho detto poco fa, e quindi ti chiedo, tra gli artisti del momento, chi è quello o quella che segui con più attenzione? Ah, in realtà tanti. Uno che ho scoperto da poco che mi piace un botto è Irbis37, che in realtà è hip hop, non indie, però secondo me col passare del tempo la linea che divide indie e hip hop è sempre più sottile, e lui secondo me è un rapper stilosissimo. Altrimenti ti direi Venerus e Lucio Corsi, che secondo me sono due talenti incredibili, e stanno già andando forti. Infatti, gli emergenti ti direi Antartica, che sono un gruppo di licenza che sta prendendo piede molto bene. A se no dei big, dei miei preferiti, ti direi Franco 126, Fra Quintale, Calbrave. Come passerai quest'estate? Andrai al mare, ti bagnerai anche tu con l'acqua salata per dimenticare i brutti pensieri? Ah, in realtà sì, penso che andrò in Sardegna con gli amici. Tra l'altro non ci sono mai stato, quindi sono stracarico. E spero di beccarmi un paio di albe, perché penso che sia il momento più catartico, no? Che puoi vivere al mare. Stai lavorando a qualcosa al momento? C'è l'idea di qualcosa di più ampio come un album e ti esibirai da qualche parte anche con la tua band, magari dove è possibile sentirvi live in qualche location di mare? Credo che continuerò a rilasciare dei singoli, anche perché per un artista emergente, indipendente, pensare a un album è veramente complesso. Anche e soprattutto vedendo come viaggia la musica al giorno d'oggi, cioè, potrebbe essere anche poco efficace. A livello di live, con la band in realtà abbiamo già fatto il primo live post-lockdown. Anche se è stato acustico, eravamo comunque tesissimi perché era il primo live dopo 10 mesi. Però è stata ovviamente una bomba. Con Carati dovrò sicuramente aspettare di mettere insieme un repertorio. Quindi, secondo me, in ogni caso, prima del 2021 non si riesce. Però, insomma, speriamo il più presto comunque di riuscire a fare qualcosa. C'è questo ritornello, questa frase molto catchy, che dice: a fine estate ti scorderai di me, che ricorre appunto tantissime volte. Ecco, speriamo che non sia così per te, anzi, ti auguriamo un buonissimo lavoro. In bocca al lupo, quindi, Carati, per questo nuovo progetto e anche per quest'estate, naturalmente, e grazie di essere stato con noi a Radio Città Fujiko. Grazie mille Carlotta, grazie a Radio Città Fujiko per lo spazio e bella per tutti, ascoltatevi 3 maggio e non dimenticatevi di me. Sei sempre di fretta, lo so. Ti dici domani, ma poi domani no. Ma il tempo per guardarti dentro. Ignori e più ti fa spavento. La metro è sempre piena, più della testa. Precario equilibrio, la mano destra. E l'unico appiglio che ti tiene su, anche se ogni curva fai salti da parkour. Dentro un film aspetti un finale facile, persa in fondo a un drink, anneghi tra vodka e lacrime. A fine estate ti scorderai di me, a fine estate ti scorderai di me. Metti fuori la testa e aspetta di sentire qualcosa più forte del vento. 3 maggio ultima sigaretta, speravi nascondesse il tuo sguardo spento. La mamma non la senti da quando è smesso, ti criticava sempre, chiamala adesso. E dille che chiuso con me sarà contenta, dirà era ora, mentre tu ricomincerai. Come dentro un film aspetti un finale facile, persa in fondo a un drink, anneghi tra vodka e lacrime. A fine estate ti scorderai di me, a fine estate ti scorderai di me. Sopra il tuo letto hai scritto un testo, sei più importante tu del resto. Sopra il tuo letto hai scritto un testo, sei più importante tu del resto. Come dentro un film aspetti un finale facile, persa in fondo a un drink, anneghi tra vodka e lacrime. A fine estate ti scorderai di me, a fine estate ti scorderai.